24 mattino. Rieccoci, siamo qua, 8:17 minuti. Tante cose di cui discutere: la favola della Melegatti dolce amara, le domeniche festive, si devono lavorare o no? Allora, mentre entra il ruggito, il miagolio felino del grande Oscar Giannino. Lo faccio io. Allora. Ecco. Ah, vi dico come la penso. Ma il mio sarebbe più dolce. Vabbè. Ecco, questo domani subito campionato. Cioè, vi dico come la penso. Ma perché in questo paese bisogna sempre dividersi per ideologia? Cioè, la mia domanda è questa: bisognerebbe fare una norma, prevedere la possibilità, rivedere il contratto del commercio e dire se ovunque sussistano le possibilità per permettere ai lavoratori di scegliere quando lavorare, questa cosa deve essere garantita, non che se uno non vuole lavorare la domenica bisogna chiudere tutti i giorni festivi. Se esiste la possibilità, facendo orari, turni di piante di organico che sono molto imponenti, si riesce a garantire questo diritto, sarebbe bello poter garantire un diritto di scelta, oppure dire puoi farne due obbligatoriamente e due volontariamente. Dire bisogna chiudere tutti i festivi per impedire alle persone che non vogliono lavorare mi sembra andare a caccia col cannone per Ci vuole una legge, ma per fare quello che dici tu bisogna lasciare tutto alla libera contrattazione, quella contrattazione, ecco appunto, lasciamola ai privati fare la contrattazione. La legge non ha bisogno di dire quanti giorni deve stare libero o aperto. La verità è che la piena regolarizzazione degli orari commerciali che abbiamo introdotto 5 anni fa avremmo dovuto introdurla in tanti altri settori. Invece il punto è che, siccome in tanti altri settori la politica non li vuole, dalle concessioni balneari al trasporto pubblico locale, alle notaie, alle professioni e così via, allora le resistenze ritornano e i partiti, proposte simili che oggi Luigi Di Maio e 5 Stelle, ma nelle regioni le hanno avanzati il PD, Forza Italia, la Lega, tutti quanti, senza nessuna eccezione. Ed è il mix di 4 pulsioni sbagliate. Primo, il curato che dice se state chiusi la domenica venite alla mia messa. Mi scappa da ridere, perché come se la messa fosse l'alternativa alla libertà del commercio. Secondo, ovviamente, il sindacalista che invece vuole norme cogenti, vuole contrattare lui e non vuole la libertà in azienda che i dipendenti e il gestore si mettano d'accordo. Ma se il mio datore di lavoro, domanda brutale, ti dice Oscar, io voglio che tu lavori 4 su 4 perché dice, fa comodo la libertà del commercio. Deve poter imporre o no? Ma non è, ma cosa deve poter imporre? Mentre che fai sto tono? Oh, c'è la libertà, se non chi te va da un'altra parte. No, ma non è una questione che decidono i lavoratori. Il negozio dei gestori, 4 su 4, i gestori e chi vuole lavorare lì si mette d'accordo, e invece il sindacato questo non piace, perché come sempre la contrattazione aziendale non piace, perché poi naturalmente il sottinteso è il commerciante ha la sua volontà di avido profitto, l'altro sottinteso è no, facciamo un favore alla grande distribuzione, come se la grande distribuzione non abbattesse i prezzi al cliente, ma chi se ne frega, perché deve stabilire la politica qual è il giusto prezzo, la giusta apertura, dai, su. Ma io quindi ti faccio questa domanda: se il tuo datore di lavoro ti dicesse tua domanda, devi lavorare 4 domanda, su 4 qual Luca, è la tua risposta? Luca, è giusto o sbagliato? Non facciamo come quando sei in televisione a condurre, come la tua domanda per me è sbagliata. La Vabbè, mia la questione è sbagliata. Piena libertà, capisci? Piena libertà, il gestore vuole tenere aperto, se trova dei dipendenti che liberamente accettano le sue condizioni, quanto di essere pagati di più nel turno festivo, nel turno notturno se ci sono le 24 ore, terrà aperto, si farà il conto di i suoi margini, che dipende da dove sta il suo negozio, la sua superficie, avrà interpretato e capito nel tempo i suoi clienti se vengono davvero la domenica o la notte, se no ci perde e così via. Piena libertà, secondo me non deve essere la legge a occuparsene, punto. Allora, ho ricevuto diversi messaggi, questa do solo una risposta, perché ho detto una cosa un po' politicamente scorretta, che l'ulteriore inasprimento delle multe per chi viene beccato con telefonino eccetera e rischia che ti ritirino la patente per un errore, ecco, che è saltato. Io ho detto attenzione, perché a me è successo che un vigile mi fermasse, vi dico che è vero, voleva farmi la multa perché avevo l'auricolare con 2 auricolari inseriti nell'orecchio, quindi lo dico, attenzione. Mi ha spiegato, norma che non sapevo, forse ho fatto l'esame tanti anni fa, mi ha detto no, se ne hai uno non sei sanzionabile, se ne hai 2 perdi sensibilità e ai rumori esterni, che sono ai rumori esterni, certo. Sì, ho capito, ma tu poi ti parcheggi a fianco quello con lo stereo a palla, ti piace lo stato con le regole, paga. paga, ti piace lo Stato. Ah, ma tu da che parte stai qua? No, stai no, no, con lo aspetta, Stato gabelliere, aspetta, ha ragione, che ti chiede 600 allora. Euro. No, no, no, aspetta un secondo, perché la sicurezza stradale è una cosa da serie, non faccio battute. Sì, ma io non credo che fai insicurezza se guidi con una sigaretta in mano. Aspetta, essendo un ex a due ruote, cioè motociclista e così via, allora il punto è che in quel caso, per esempio, sei più esposto, ovviamente non c'è la carrozzeria intorno dell'auto, eccetera, eccetera. Ecco, per esempio, in quel caso, ancora di più vale il fatto che devi usare le orecchie oltre che gli occhi, perché è una radar vero, assoluto. Vero. Eh no, ma quella che ti può sembrare, nelle parole del vigile, un eccesso, in realtà ha un significato, sì, ce l'ha, secondo me, per la sicurezza stradale, cioè devi sentire anche con le orecchie. E allora bisogna vietare qualunque comunicazione, perché se tu stai con l'auricolare e stai facendo una conversazione, non sei impedito io ti dirò a sentire i rumori dell'esterno. Che per questa ragione, se anche se di solito la gente si incazza, discoteca, io quando guido non rispondo mai al telefono. Infatti, capisco quello che dici, io sono coerente, ma perché mi sento altrimenti meno sicuro nel guidare. Non dico che abbia ragione il sottoscritto e il codice della strada debba essere così, però io non rispondo mai. Infatti la gente dice, beh, guidi, ma lo fanno tutti, e io non rispondo invece. Ma vogliamo trovare almeno un compromesso sulle domeniche, che devono comunque essere pagate di più? Ma no, questo non c'entra festivi. Niente, quello dipende dalla libertà. In alcuni casi non devono, cioè tu vuoi ma devono sei essere il solito dirigista di Diocleziano, è Luca, che sceglie il giusto prezzo e il giusto contratto. Ripetila per la storia. Ma no, per la storia, sei un Diocleziano, sai quello che vogliono fare i calmieri di tutti. Il giornalista stabilisce il giusto prezzo, il giusto orario, il politico lo mette in legge. Ciarpame, capisci? Libertà assoluta. Vai. Perché ti dico libertà? Perché se il lavoratore giustamente non gli sta bene quanto gli viene proposto per il turno domenicale festivo, ma non c'è mica una condanna a essere deportato e lavorare in un esercizio commerciale. Però altri accettano e così via. Solo che la libertà dà fastidio a chi non la sopporta, perché vuole essere lui a stabilire la politica. Allora, 8040024 per le vostre telefonate, 349-238-6666 per i vostri messaggi, la segreteria telefonica di cui siamo molto contenti, 02-30-22-4492. Ho dato tutte le coordinate. Adesso introduciamo un personaggio che qualcuno forse aveva dimenticato. Vi ricordate tutte le polemiche su Francesco Siciniano, il pistolero, era stato chiamato, poi si era candidato in una lista di Forza Italia, poi è andato su tutti i media, su tutti i TG, è un grande comunicatore. Bene, Siciniano oggi è qui con noi perché c'è stata una sentenza che lo riguarda. Era l'apertura di tutte le testate giornalistiche web ieri sera e ancora nessuno l'ha sentito. Buongiorno Siciniano. Buongiorno a lei, Telese. Allora, alla fine ce l'ha fatta. Ma non è che io ce l'ho fatta, lei sa benissimo che dall'inizio sono sempre stato tranquillo e sereno, perché quando uno dice la verità problemi non ce ne sono. Forse sono stati i media e i giornali che hanno sparato un mucchio di cazzate, ma tante. Parta tutto, subito di piccole cose varie. Dobbiamo raccontare, aspetti, diamo la notizia in questo giudizio che lo riguarda con una parziale prescrizione, però c'è un'ipotesi, cioè che questa persona che lei ha ferito, la difesa lo contestava, l'accusa è stata archiviata perché i periti hanno detto che probabilmente il signor Gioni, 22enne, ferito a morte, si è trascinato lui fino alle scale. Non è probabilmente, è così. Sì, perché lei è non l'ipotesi. Ha letto la sentenza, se lei legge la sentenza c'è scritto, è arrivata ieri alle 8 notizia, cristalline, se vuole gliela mando, non è un problema. Ecco, me la mandi, Luca, @lucatelese.it. Senta, ma che lezione trae lei da questa vicenda? Vorrebbe andare in Parlamento a riscrivere le norme, o quella legge l'ha tutelata? Telese, lei intellettualmente è un po' disonesto e le potrei spiegare anche il perché. Allora, lei sorride, ma guardi che non è così. Io non voglio andare in nessuna parte perché lei non sta pronto. Sì, eccomi. Sono pronto? Disonesto ma attento, la sto sentendo. Ecco, allora io non voglio andare in nessun posto, io voglio soltanto che faccio parte, sono socio onorario dell'Osservatorio Nazionale a Sostegno delle Vittime, e se e ho 300-350 messaggi al giorno di gente che vive di merda, ok? Ringraziando le regole di questo paese. Allora a questo punto qua io non mollo mica perché mi hanno assolto. No, ma guarda, io non volevo, non, se devo dire una cosa la dico, non insinuo. La domanda che le facevo era questa: questa legge tanto contestata va bene così com'è, perché alla fine no, ha prodotto... No, va bene così com'è, ecco. Va modificata. Oh, e questo le chiedo, e qui altro che intellettualmente disonesto. Vede, lei è seduto lì sulla sedia e ne parla, io invece ne parlo perché l'esperienza l'ho vissuta sulla mia pelle. Allora, la politica, per fare una buona legge, lei sa che siamo stati in Parlamento a settimana scorsa per il rito abbreviato, che poi il Presidente non lo mette neanche in lista, lo rimanda alla nuova legislatura, che questo è un paese che ormai deve solo vergognarsi di come si è ridotto. Cioè di come cosa dovrebbe ridotto. Cambiare? Ci, diciamo deve subito cambiare, qual è la cosa che deve cambiare, allora, per lei. Quando si fanno le leggi su queste situazioni qua, bisogna innanzitutto prendere 10 vittime e 10 rapinatori, no? Metterli insieme e dire: signori miei, ci raccontate le vostre emozioni, le vostre sensazioni. Allora uno capisce veramente il problema, perché quando io mi sentivo dire che a 2 metri che uno che mi salta addosso al buio, all'1:20 di notte, all'1:15 dovevo chiamare i carabinieri, quello lì è un grande idiota, perché quello non capisce un cazzo uno che dice così, perché non si è trovato in questa situazione qua, ha capito? Allora il problema è che chi ci si trova sa benissimo come vive, perché io oggi sono dispiaciuto perché ci sono 2 famiglie che hanno 2 disgrazie, loro che hanno perso un ragazzo di 22 anni e io che vivo di merda, io, mia moglie e i miei figli, perché viviamo nel terrore nella nostra casa. Ha capito cosa vuol dire? Questo paese qui ha portato il paese alla rovina, perché io in casa mia non mi sento sicuro. Io tutte le notti mi alzo 2, 3 volte, 4 volte e rivivo la stessa situazione. Perché io devo vivere così? Quando si prendeva per l'orecchio questo signore qui che era stato espulso, lo si consegnava in Albania, stia tranquillo che se lo consegnavano in Albania lo tenevano lì, non veniva più di qua. Ha capito? Ma guardi, l'abbiamo chiamata proprio per sentire la sua voce, perché è importante capire chi è passato in mezzo a una storia, cosa pensa. Io sono di natura così, quando lo so, ma la conosco bene, signor Francesco. No, lei non mi conosce bene, perché se lei mi mette un'ora, allora, pensi se la conoscessi, quello che vuole io le rispondo apertamente, proprio sinceramente, perché io quello che dico lo sento realmente, non come tanta gente che va lì, fa politica e spara le cose per comodità. Cioè, ma quindi la cosa che l'ha fatta arrabbiare è che lei vuol dire: io non voglio più fare politica, è questo che voleva dire? Ma non è vero che non voglio fare politica, io farò quello che... Allora, quello che mi si prospetterà di fare lo decido io, non lo decidono gli altri. Se devo andare in mezzo a un branco di gente che non tollero, non ci vado, stia tranquillo. Perché io ho assistito a una scena l'altro giorno in Parlamento che mi veniva il volta stomaco. Come sono io di carattere, sarei saltato giù dalla tribuna. Perché quando l'onorevole Molteni ha parlato del rito abbreviato che è passato alla Camera e forse Italia si è astenuta, che non me lo sarei mai aspettato una roba del genere, si figuri lei. Cioè, questo qui parlava, c'erano sulle vittime, 60 vittime su, che gli hanno ammazzato i figli, tutto quanto, e qua là parla, dice, e questi cazzo giocavano, parlavano, non lo cagava nessuno. Ma secondo lei io vado a scuola e il maestro parla e mi faccio le pippole, sembra una roba seria. E lì è ok, così, attenzione lì. Che ci sentono anche molti bambini e a quest'ora sono accompagnati in macchina. Lo dico solo se vuole tenere una cotella, non la voglio censurare. Le pippe non sono problema. Pubblicità, e Oscar forse le vuole chiedere qualcosa. No, rifiuto. Mattino. Allora, rieccoci al telefono uno degli uomini del giorno, Francesco Siciniano, il pensionato che era stato accusato di eccesso colposo di legittima difesa, oggi è stato archiviato. L'ultima domanda, Siciniano, non mi risponda male, non insulti, no, io non ho ancora capito se lei, siccome sento che vuole fare questa battaglia, la vuole fare in Parlamento o no. Sì, no, ma o guardi, non ancora deciso. Allora, Telese, non è il fatto del Parlamento, le battaglie si fanno anche fuori, perché se noi oggi siamo in non si vuole candidare qua, ma non è che non mi cade, al momento sono qui che combatto per le vittime, per l'osservatorio, poi si vedrà. Io ho 67 anni, 68 anni, però vede, io a differenza di tanti altri, perché se noi abbiamo questa politica qua, no, non è mica colpa dei politici, e allora si candidi, scusi, ma non c'è niente di male, non è che le sto dicendo che lei commette un reato. Non lo so ancora se mi candido. Benissimo. Non lo so ancora, devo prendere delle decisioni, perché siccome che sono stato all'interno 2 anni in questa politica, è un ambiente che ci sono delle brave persone, ma veramente che lo fanno con il cuore, col sentimento, ma tanta altra gente no, non so se ci trovo in quell'ambiente lì, ha capito il problema qual è? Io sono fatto un po' la mia maniera, quello che penso, non lo dico, deciso. E sono una persona corretta, leale, capito? Cioè io benissimo. Sono fatto così, sarò fatto male, però io non ho mai fatto del male a nessuno. Quella sera, maledetta sera lì, mi ha rovinato la vita in 3 secondi. È questo che la politica non capisce. La legge che c'è va bene, ma va migliorata. Perché se io le devo raccontare come funziona... Cioè, ci sono delle situazioni che a volte vengono da sole e poi uno deve pagare delle conseguenze per delle situazioni che non ha voluto lui. Ha capito il problema qual è? Perché lei mette a caso che io quella sera avrei sparato 3 colpi anziché uno. Secondo lei, certo, che evoluzione lei avrebbe avuto la situazione? Io tutte le notti ho questi pensieri, continuo, poteva andare così, poteva andare in altro modo, poteva fare questo. Cioè, è un casino. Cioè, perché bene. Io devo vivere in questa situazione qua? Devo vivere in una gabbia con le sbarre? Ma non esiste proprio, ma non esiste. Guardi, registriamo la sua esperienza, la sua testimonianza, vedo tanti messaggi, ovviamente lei suscita i sentimenti più opposti, ma questo è il bello della democrazia e del confronto. Grazie Siciliano, buongiorno. Io la ringrazio, buona giornata. Buona giornata a lei. Oscar, fra poco abbiamo Gori. Ma mi spieghi il punto, 12 minuti per sapere se Siciliano si candida alle elezioni? Cioè, mi spieghi davvero? Cioè, a me interessa una cosa, come aspetta, no, Siciliano, ma dai che adesso 12 minuti, dai. Cioè, il punto è, secondo te, chi a casa e non ha idea qual sia il punto, ha capito in cosa deve cambiare la legge, che è la cosa secondo me più importante? La mia risposta è chiara, no. Lo ha detto, no. Lo ha detto. Ha secondo detto, se uno non è una legge fatta se male. Uno non è direttamente protagonista di una vicenda, non ha non titolo lo può per capire. Parlare. È punto numero uno. Gran fregnaccia, perché io che sostengo da anni come lui che la legge va cambiata, detta così non si va da nessuna parte, perché altrimenti facciamo scrivere ai commercianti la legge del commercio, ai professori le leggi di quando si fa e come si fa lezione e così via. Non funziona così, nel senso che il codice penale lo si stabilisce con un'altra ottica, un'altra professionalità, capisci? Ecco, quello che io non sono d'accordo con questo criterio. E poi vuole candidarsi alla lezione, ma è il suo diritto, ma chi se ne importa? Il problema è che chi sta a casa secondo me non ha capito di che cosa stiamo parlando. Se lui volesse candidarsi, sia in cosa vorrebbe cambiare la legge. Ha parlato a 12 minuti un uomo e non è riuscito a dirci in cosa vuole cambiarla. È una scelta. Allora salutiamo Giorgio Gori, che in questo momento è il candidato del Partito Democratico alla presidenza della Regione Lombardia. Dico bene? No, molto di più che del solo Partito Democratico. Sì, buongiorno. Della coalizione di centrosinistra che si raccoglierà intorno al Partito Democratico. Ovvio, questo è... Ça va sans dire. Buongiorno, e anche Oscar saluti, perché buongiorno. Sennò, buongiorno. Allora, Gori, è una campagna difficile perché in parallelo con quella delle elezioni politiche è una campagna diversa. E come ha deciso di scendere in campo in un momento così delicato e di sfidare, come dire, un campione in carica come Maroni? Ma insomma, non è che io l'avessi proprio previsto, però insomma questi anni di esperienza amministrativa a Bergamo sono stati molto positivi, abbiamo fatto molte cose, e da lì è nata, dai colleghi sindaci degli altri capoluoghi lombardi, la proposta darmi disponibile alla candidatura. Ci ho pensato un po' e ho deciso all'indomani della sconfitta che il centro-sinistra ha patito alle amministrative di giugno, perché mi sembrava che lì bisognasse dare un segnale. Io credo che non vada bene che la regione più, che dovrebbe essere la più moderna del paese, sia nelle mani della Lega da molti anni ormai. Ma ecco, quindi... però questo, aspetti, la interrompo, non per poi riprendere, ma solo per spiegare a chi in ascolto. Perché di fronte a un esito elettorale negativo, no? Per il suo schieramento politico, lei, a differenza di altri che direbbero fammici pensare bene piuttosto che mettere la mia possibilità di esposizione a una sconfitta, lei dice no, a maggior ragione ho preso la decisione in quel momento. Perché? Ma insomma, voi mi conoscete da prima che io facessi questo lavoro. Non ho deciso di impegnarmi in politica, nell'amministrazione locale, così per chissà quale interesse. Lo concepisco come un servizio e in questi casi bisogna metterci la faccia e osare, secondo me. Non credo che non esistessero altri candidati, però poi alla fine il mio partito e altri partiti, altre liste civiche lombarde hanno deciso che io fossi quello più giusto da schierare. Io ho detto va bene, proviamoci. Due cose che lei farebbe e che Maroni non ha fatto, e due cose che lei considera sbagliate e anche gravi da quello che dice che Maroni e la Lega hanno fatto nella giunta uscente della Lombardia. Insomma, delle cose che considero sbagliate, ne citerei due. La prima è che si sono dati anche in questa legislatura dei casi di malcostume politico gravi. È stato arrestato il vicepresidente della giunta regionale, il presidente della commissione sanità, l'estensore della riforma Maroni, pure ha dovuto lasciare per un evidente episodio di corruzione. E questa secondo me è una cosa che deve davvero cambiare, a partire dalla selezione dei candidati che faremo nelle prossime settimane. Cioè non sono casi isolati per lei, c'è una classe dirigente che è corrotta. La precedente giunta, quella di Formigoni, si dimise anzitempo, come ricordate sempre, per episodi di corruzione. E poi c'è un tema di laicità. Io credo che l'istituzione regionale non possa essere piegata a interessi di parte, e invece in questo caso spesso si è fatto. Ricordiamo anche come è stato usato, sono stati usati i soldi dei cittadini per la campagna referendaria, ma prima ancora forse l'episodio più grave è stato quando sul Pirellone comparse una notte la scritta Family Day a sostegno della campagna legittima, ma certamente di una parte e non di tutti i cittadini lombardi. Questi due criteri, legalità e laicità, devono valere sempre per me. Cose invece concrete che io cambierei. Ma quindi, scusi una cosa, questa questione morale che lei denuncia, cioè secondo lei è frutto di una cattiva selezione della classe dirigente che il centrodestra e anche Maroni hanno fatto? Evidentemente sì. Quindi Maroni ha una responsabilità diretta o indiretta? No, le responsabilità sono individuali, però io credo che la responsabilità invece di chi guida un progetto politico sia quello di scegliere il meglio possibile i suoi collaboratori. Quindi, insomma, non ha ben vigilato, secondo lei, questo vuole dire? Esatto. Dicevo invece di cose che quelle cambierei che farebbe in questa regione, cose che cambierei in questa regione, ma ce ne sono tante. Forse la più evidente in questo periodo i cittadini lombardi, periodo in cui tutti i giorni leggiamo dell'inquinamento grave che si registra in questa regione, inquinamento dell'aria ai massimi livelli in Europa, è impostare un programma di lungo periodo che sia sul tema delle caldaie, sia sul tema della mobilità, che deve necessariamente avviare una transizione verso sistemi di trazione non termica, deve cambiare, nel senso che noi qui abbiamo concentrazione di microparticolato, NOx eccetera, che non ci sono in nessun'altra parte d'Italia, e non ho visto fin qui nessun tipo di strategia vera. Allo stesso modo penso che sui trasporti che riguardano quotidianamente 740.000 lombardi si sia rimasti molto indietro. Qui abbiamo l'alta velocità che va come una freccia appunto a Bologna, a Torino in un'ora, e però ogni volta che un pendolare sale su un treno succede qualcosa che non funziona. È necessario che la regione imposti con il Ministero dei Trasporti e con la RFI un piano serio di rinnovamento della rete ferroviaria e metta a gara i servizi in modo da avere treni nuovi rapidamente. Oscar. Io sottolineo a chi ascolta questa cosa dell'impatto energetico e sull'ambiente, è una delle scelte più importanti, lo dico sempre per spiegare a chi è a casa, delle scelte che si dovranno fare nel vista del piano energetico che va in vigore, va presentato prima in Europa e va in vigore poi nel 2020, ed è una delle scelte più importanti da fare nel 2018. Il nuovo Parlamento dovrà passare dalla strategia energetica, che è un quadro di fondo quello esaminato adesso, a delle scelte concrete. Allora, in questo quadro, quello del piano nazionale, che la più grande regione insieme a Miramare, della Padania, per capirci, che per la Padania non in senso politico, però della pianura padana, ecco, diciamo dell'area padana, esatto, però per la sua caratteristica orogenetica, la pianura padana è una delle aree in cui, un po' come capita a Pechino in Cina, si concentrano particolarmente per questioni di correnti, flussi, alto-basso, temperature, allora, i particolati, e quindi lì ha senso fare scelte prima che le faccia a livello nazionale. Quindi io sono, ho sentito la cosa che dice Gori, sono molto d'accordo, perché di qui c'è un pezzo di soluzione. Quindi i candidati, chiedetegli esplicitamente cosa pensano di fare per questo, ma lo dico in questo momento, non è una domanda, perché altrimenti non si capisce, sembra che sia una roba, vabbè, l'ambiente, i trasporti. No, l'ambiente l'anno prossimo, anche per le elezioni politiche, chiedete ai candidati dei partiti, alle nazionali, che tipo di piano energetico vogliono. Vogliono uscire del tutto dal carbone o no? Quanto costa uscire del tutto dal carbone? Costa circa 20 miliardi, vi devono spiegare come. Allora, mi perdoni Gori se ho fatto questa cosa, ma in realtà era anche per dare una mano. Giusto, noi abbiamo messo al lavoro un gruppo di esperti proprio per arrivare a scrivere nel programma le soluzioni che noi adotteremo. Appunto. Su questo. Appunto. Gori, una domanda, può esserci un'alleanza diversa a livello nazionale, a livello lombardo? Per capirci, lei tirerebbe dentro la coalizione, che ne so, Alfano, Grasso, persone che magari non entreranno nell'alleanza di Renzi? Ma la coalizione è già diversa, anche soltanto per il fatto che il campo progressista ha deciso di non correre alle elezioni politiche e invece sarà presente insieme, credo, a socialisti e ambientalisti con una lista in Lombardia. La coalizione oggi si presenta come un insieme di forze politiche e civiche e penso che vada ulteriormente allargata. Io ieri ho fatto la conferenza stampa e ho spiegato come non sia comprensibile il fatto che Liberi e Uguali stia in Lombardia fuori dalla coalizione. Lo dico perché so che abbiamo idee molto prossime, se non coincidenti, sulla maggior parte dei temi. Ah, e quindi ce li vuole. Perché Alfano? A differenza di quello che succede sul piano nazionale, dove Pierluigi Bersani può dire, mi dispiace ovviamente, ma può dire ci metteremo d'accordo dopo in Parlamento eventualmente, in Lombardia non funziona così. In Lombardia si vince o si perde, si vince tutti insieme, oppure se vince di nuovo il partito di Salvini e noi stiamo per altri 5 anni all'opposizione. Questa è quindi la scelta che dobbiamo fare prima, e secondo me il prima possibile. Per cui, come ho detto ieri, mi piacerebbe poter parlare nei prossimi giorni con il Presidente Grasso, perché credo che questo argomento sia comprensibile nelle regioni, non soltanto in Lombardia, anche nel Lazio. È molto importante che lo schieramento comprenda anche Liberi e Uguali. Allora, grazie a Giorgio Gori, auguri, lo salutiamo, lo risentiremo presto, così come buona ovviamente il suo rivale Maroni, gli altri che verranno. Pubblicità e torniamo subito dopo, c'è già un ascoltatore in linea. Di nuovo qui Luca Terese, Oscar Giannino, 8:48, Marco da Cremona irrompe nel nostro salotto. Marco? Marco, Marco? Marco c'è? Si è perso. Eccolo, vai. Spenga tutto, c'è un effetto eco oltre tomba. Pronto? Ecco, spenga la radio. Pronto? Vabbè, qui siamo, sembra una seduta spiritica. O Marco abbassa la radio, non possiamo sentirlo. Intanto, Oscar, chiamate Prodi. La notiziola del giorno che mi manca, la tua notiziola. La mia notiziola del giorno è l'intervista dell'ex vice direttore generale della Popolare di Vicenza, che è fuori dalla banca, che dice che il direttore generale Sorato, che insieme a Zunini era il comandante, il capo della banca di tutte le sue operazioni deviate, gli raccontò che incontrava la Boschi per parlare della banca. È un elemento che c'era ignoto, vedremo quanto, quando, come, se verrà fieramente smentito. E per dire che sì, tutti i particolari di quello che la politica ha fatto intorno alle banche, alla verità, non li conosciamo ancora, e ogni tanto ne emergono di alcuni. Prima di prendere tutto prorocolato, vedremo, ma non cessiamo di battere queste piste. Marco da Cremona, riproviamo. Marco, pronto? Oh, eccomi. Bello, forte e chiaro, ottimo. Ecco, buongiorno. È un problema con il Bluetooth. Innanzitutto grazie per la possibilità, certo, di intervenire, prego, nel programma. Allora io volevo fare un passo indietro e parlare a riguardo del discorso aperture nei festivi, ma più che l'apertura sui festivi per quanto riguarda la contrattazione diretta di alcune categorie con le aziende. Io generalmente sono d'accordo su questa cosa e sono non contrario ai sindacati, perché non si può dichiarare contrari ai sindacati, ma penso che spesso ad oggi passino più danni che altro. Però per quello che vedo intorno a me, tante persone che conosco, vedo esperienze dirette, quella di mia moglie, quella di tanti amici, si trova quando non si ha una professionalità facilmente spendibile sul mercato, quindi una professionalità, parliamo di commerciali per esempio, che hanno una più facile gestione della contrattazione diretta con il proprio datore di lavoro. Quando si è biologi, operatori, operai, diventa molto difficile gestire. Cioè il coltello sta dall'altra parte del manico, ho capito. E su questo io sono convinto. Sentiamo Oscar che dice. No, io non sono convinto. Non sono convinto. Nel senso che la libertà pattizia di lavoro esiste, e fino a prova contraria, tutti quelli che sostengono questa tesi è perché vogliono stabilire loro quanto va pagato e come va prestato, punto. Ma è da, ripeto, è da migliaia d'anni che va avanti questa cosa qui. Ogni volta si dice che la ragione è un'altra. No, non è vero che li voglio stabilire io, però penso che sia giusto che li stabilisco io. Io penso invece che sia meglio una cosa in cui c'è un gestore che ritiene che gli servirà, è utile, perché nemmeno lui vuole, impazzisce l'idea di stare sempre sul pezzo, a tenere aperto. Se trova qualcuno che accetta le sue condizioni, terrà aperto, se no non potrà tenere aperto. Quindi non credo affatto che il sindacalista e il rappresentante datoriale a livello nazionale sappiano meglio del singolo commerciante, che lo calcola a seconda di dove è il suo posto, quanto è esteso, che flussi ha analizzato nel tempo, qual è ricco il suo assortimento, come è diminuito il suo circolante nel tempo perché ha avuto problemi di liquidità. Chiaro. E di tasse aggiuntive, lo sa meglio lui degli altri, e in quel caso sa anche chi va a lavorare lì, se gli va oppure non gli va. E se il commerciante gli dice bene, adesso però teniamo aperti tutte le domeniche, tutto l'anno, tutti i festivi, se non gli va bene dice beh, allora te ne trovi un altro a questo prezzo, se non mi dai X di più. Che io penso che sia meglio così, e naturalmente so che non vi faccio cambiare idea, però nemmeno io la cambio. Anna da Catania, pronto? Sì, buongiorno. Eccoci. Mi scuso per il tempo di voce perché sono raffreddatissima. Vabbè, speriamo però che guarisca presto. Mi ha spinto a intervenire perché lo trovo un po' prepotente, un bel po' prepotente. Allora io direi intanto, quando affrontate certi argomenti, di chiamare le persone interessate. Come io ho lavorato, sono in pensione, ho lavorato nel periodo migliore del commercio, dove c'era un contratto che veniva rispettato, oggi non più grazie al signor Renzi. Torniamo ai particolari. Il lavoro domenicale una volta si faceva come forma di straordinario, addirittura desiderato, perché era un modo per guadagnare un po' di più. Oggi è un abuso, perché si lavora in periodi di magra, la gente non ha soldi, però dobbiamo aspettare la domenica, e comunque questa è una cosa superata. L'esagerazione è nel fare lavorare i festivi, Natale, Ferragosto. E l'esagerazione perché, signora? Perché gente ha il diritto di vivere in famiglia. Noi ci vive in famiglia la domenica. Perché un lavoratore del commercio non lo può fare? Perché secondo lei lavora 365 giorni l'anno e basta, non ci sono i turni, vero? Si sta toccando quasi questo. Ah sì, non discordiamo, d'accordo, d'accordo. Viviamo la deportazione permanente, e sono tutti ad Auschwitz. E poi soprattutto quello che dice lei, sì. Se non le va a lavorare da un'altra parte. Dove? Me lo indica lei dove? Dove glielo indico lei? Chi glielo deve indicare? Lo Stato e il sindacato, secondo lei? No, ce lo si cerca. O pensa che io sia figlio di papà, per cui non ho dovuto lavorare da quando ero piccolo, e lavorare i sabati e le domeniche. Cosa pensa lei? Che siccome parlo in una radio, c'è papà Agnelli che sono là, pensa a questo, signora? Questo è il grande argomento di chi obietta, per chi non la pensa come voi, che vuole Stato e contratti. Questo è il vostro grande argomento? Non è un grande argomento, signora, perché io non mi permetterei mai di dire che siccome lei ha lavorato allora concepisce solo un mondo in cui è il politico che decide quali festivi si lavora e chi no, perché io rispetto la sua opinione. Lei invece dice che sono prepotente. In cosa sono prepotente? Ma roba da matti. Allora, nuova rubrica di questo programma, sentite i chilometri e le storie che ci avete raccontato. Io sono Roberto, ho la mia sede di lavoro a Santa Palomba e al giorno faccio più di 90 chilometri, 3 ore al giorno dedicate al traffico. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Ma 100 all'ora magari? Lavoro in banca, vado da Varese a Como e faccio circa 100 chilometri andate e ritorno per potermi recare al lavoro. Ma si brucia il motore nel bel mezzo della vita. Buongiorno, sono Corrado, lavoro in Belgio. Per andare al lavoro faccio dai 80 ai 100 chilometri al giorno quando racconto questa cosa qua in Italia, mi prendono per pazzo, invece qua è la normalità. Buongiorno, sono un libero professionista, mi chiamo Giuseppe, ho lo studio a Milano e abito in provincia di Bergamo. Tutti i giorni faccio praticamente oltre 100 km e non ho la possibilità di acquistare una casa a Milano in quanto le banche non concedono mutui a liberi professionisti. Questo è un po' quello che volevo far emergere, la categoria dei liberi professionisti. Eccoci, era la nuova rubrica. Aggiungete il vostro pensiero e ci sentiamo domani. Ciao, ciao da Oscar e Luca.